Attenzione, l'aeroporto di Linate, mitico, sito su 36.000 metri quadri, incredibile, 307 voli giornalieri internazionali e internazionali. E i bambini si annoiano. No, fai volare la fantasia, falli visitare l'aereo. Sì, forse perché un sorriso per il tuo bambino non ha prezzo. Bella a tutti. Bella, benvenici. Bella, bella, bella. Questa è Underground Pusher. Sono Ninco Nanco. Nino. Presente. Avvicinati un po' al microfono, Nino. Ci stiamo approcciando al volo. Ok. Prima puntata a tre. Prima puntata a tre. Quindi iniziamo con la selezione, Mauri. Cosa c'è preparato? Ci sta di brutto, ma mi ha fatto un po' di ricerche. Ma possiamo iniziare. Dai, sì, ci sta. Questa qua? Cattiveria? Mettiamo questa qua? Iniziamo con un po' di cattiveria. Dai, iniziamo con la cattiveria. Questa qui. Questa qua mi sembra giusta. L'ho giusto scaricata oggi, è mia uscita nei correlati. Oh. Eh sì, perché questo periodo di ricercaggio, alla fine sono saltate fuori delle chicche per me nuove, e questa è una di quelle. Dai, allora approfittiamo e ascoltiamocela. La cattiveria a destra e a sinistra. Ehi, sei che non mi ricordo. Da un cazzo fatto di miti sconfitti, modelli fissi in eclissi, ribelli in crisi, crocefissi come cristi estinti, vessilli degli idealismi convinti, la mia generazione ha perso, generazione vinta, tra infimi conflitti, infiniti diritti trafitti, qui finti afflitti, finti figli dei finti, i miti di un'era trascorsa, sono l'ennesima stretta di morsa, mossa di testa tra scille e cariti, vivo in un mondo di statue e rovine, idee fatte di cenere, ruggine, polvere e mine, e io mamma, è chiaro che ne soffro, ma non faccio lezioni. Rifatevi al celebre saggio di Bobbio. Esistono ancora netti punti di vista. Esistono ancora i concetti di destra e sinistra. La prima segue orme, si diffonde nuove forme. Forché la seconda si contorce, forse agonizza. Ma buon uomo non c'è binomio, scelta unica. Tu giudica sta terra da terza guerra punica. Ne ho visti di più tristi che crispi i suoi ministri. Ma io qua quasi ripiango la prima repubblica. Qui vidi alcuni complotti tra resti e teschi. Studiavo Bakunin, Coprocline e tutti i cattivi maestri. Ma in questi contesti no, non servono testi, vivono culti egemoni e più demoni che Dostoevskij. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Quando vuoi tu rifletti un po'. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Come vuoi, ma sti concetti per te reggono. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Vidi sofisti dei conti, ministri, bifronti. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Incroci tra dinosauri e camaleoni. Sto crescendo col popolo, no, non rinnego il gioco dell'uomo, ma il padrone lo metto, il patibolo, non verso l'obolo, mollalo il povero, strati sociali, differenze che annovero, fasci maiali fanno il gioco più sporco, no, dei tempi sono loro che governano, tengono il povero, si arricchisce il porco dai lavori instabili, interinali, contratti, co, colmo la brocca col colmo dei colmi, ma instabili come olmi, mamma, ma quale destra e sinistra, ne scorgo pochi nella lista, stacchi netti, tagli fatti, senti più gente stenta per i vostri patti, non concordo con certi accordi e scordi. Un futuro sporco, unica tattica, fare il gioco del morto o fare il gioco del sordo, torto e ritorto pensiero, quale giusta scelta, ma quale ardore scegliere fra il male minore, ma quale destra e sinistra, qual discorso s'allaccia, il tuo letto, le leggi, le spalle a letto, semi destra e testo, il mio sogno castra, caro costo, l'oblio un mondo a posto, amorfo, so che il percorso è sporco e balordo, è un brodo che bolle, ribolle, riballe di un folle. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? E quando vuoi tu rifletti un po'. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Come vuoi sti concetti per te vengono. Che cos'è la destra? cos'è la sinistra? Ogni mio mito è sparito, svanito, spartito. E cos'è la destra? La sinistra, polpetta partita. Sono confronti vacui tra Colombo e Rapaci, mamma. A me sta strette ste etichette vecchie, poi non so che farci. Agitarmi no perché la calma non passa di moda. Finisce che di sto passo si rifinisce al passo dell'oca, mamma. La mare in bocca manco è il minimo. Io sai che sto maschio qua non è nostalgico dell'olio di vicino. Io esplicito il disagio nella trama che tesso. Il privilegio è un principio applicato troppo spesso adesso. Eccesso d'odio nei confronti dei vari falsi e fasci. Che i nuovi compagni si rilegano Gramsci. Tasti dolenti come trasformisti beceri e grassi. Non confondo i socialisti e la Pertini con quelli e la Craxi. E passi la questione di fondo deprime. La sinistra non esiste, a destra nani, ballerine e lustrine. Da una parte ricordi di fosche sedute spiritiche, d'altro canto un premier spiritoso come le comiche. Ma ho coliche ricorrenti, violenti, mal di testa. Voi leggetevi e tenetevi pure i saggi di Vespa. Un'altra mescola rispetto all'impasto odierno. Leggetevi Malatesta che di certo è molto più moderno. Ma altro che prese di palazzi d'inverno in eterno. Qua trattasi di mal governo come punto fermo. Sai che non vedo, non credo, di certo non prego, di certo non rinnego il mio credo finché non crepo. Di che partito è lei? Come mi scusi? Insomma, lei è di destra o di sinistra? Porca miseria. Sinceramente? Sinceramente? Non me lo ricordo. Hey yo. Bella, questa era appunto destra e sinistra della cattiveria, che appunto ho riscoperto essere alla fine una posse militante, cioè ha spinto un botto di pezzi alla fine. Sì, sì, nascono soprattutto come posse militante, poi dopo ha fatto Murubutu come solista ha avuto un'evoluzione diciamo differente rispetto agli esordi, però più o meno diciamo che mantiene quella linea lì di tipo di rap molto colto, diciamo, e molto antifa. Anche perché mi ricordo il periodo che ci fu su che su Facebook è stata traslata in una campagna con un simbolo tipo qui si fa musica antifascista e lui era, diciamo, tra i primi, quindi sì, fu promotore di quella campagna, sì. Beh, possiamo anche dire una cosa, che l'abbiamo ospitato più volte qui da noi a ZAM. Una volta addirittura ho dovuto fare doppio live per il numero di persone che c'erano. Sì, c'ho ancora anche gli incubi di quella serata. Faceva anche un po' freddo, era questo mese. Sì, e poi un'altra volta, me lo ricordo molto bene, credo che fosse il marzo del 2018, all'Ambretta Vecchio, in zona Piazzale Cuoco, ha partecipato come guest star per Dax, quindi evento 130.000. È vero, benefit 130.000. Decisamente, quindi una presa di posizione c'è stata. Sì, sì, sì, no, poi lui è un grandissimo, in mille occasioni si è esposto. Mi ricordo che Reggio Emilia, quando morì un ex brigatista mai pentito, che si chiama Prospero Gallinari, e il giorno dopo c'era un suo concerto a Reggio Emilia, lui cantò una canzone che si chiama Martino e il ciliegio, che vi consiglio, che è una delle mie preferite, che racconta la storia di un compagno che negli anni 50-60 decide di fare una scelta radicale, e molti attribuiscono questa canzone, diciamo, alla storia di Prospero Gallinari, motivo per il quale Forza Nuova lo denunciò per apologia di terrorismo e altre, oltre a mandargli minacce, eccetera eccetera. Ovviamente lui non fu prosciolto da quelle accuse e tuttora ai live canta quella canzone, molto bella. Non ho capito, fu prosciolto? Prosciolto, nel senso che non c'erano... Se fu o non fu prosciolto? Sì, sì, no, fu prosciolto, quindi i fasci pagarono... Ah, ce l'abbiamo, allora la mettiamo, scusami, non l'avevo vista. No, che stavo lumando un'altra canzone perché vedo Nino un po' spento, ho detto, no, spingiamo Ned Cassel così si ringalluzzisce. Giusto, giustamente. Dalla prossima mettiamo Ned Cassel. Però abbiamo il prossimo Martino punto Ciliegio. C'è Martino Ciliegio, così pensiamo al non Prospero, Prospero. E dagli, bella lì. Martino Ciliegio, Murubutu. E Martino che che da bimbo s'era fatto guerriero. Guardo il cielo che d'azzurro s'era fatto nero. Il sole rischiara l'aria, un'alba bianca canta la terra nativa, la madre lo chiama. Sono le 5 della mattina, ora che sono in 5 in famiglia, si stringe la cinghia in cucina. Voi fuori scalzi nei campi fra i tracci di uva spina. Martino china la schiena fra i vari agri nel segno della sua vita. Quando nacque suo padre piantò un ciliegio nella cascina. Tramandati si dà via padri la dura vita contadina, ora che sono passati da vittuari a mezzadri. Più come prima, il Reggio degli anni 50, campagna, officina, è ancora attiva la prospettiva della prima cooperativa. Qui vive Martino, la sua esistenza è pure essenza, nella terra in cui la cultura della resistenza è ancora viva. I racconti dei partigiani, fratelli Cervi, l'R60, la resistenza tradita e i risvolti del piano Marshall. La storia d'Italia narrata dai vecchi lo incanta, ma in realtà questi vecchi di anni non ne hanno più di 40. Le lotte per il pane e la fame, le lotte operaie senza fine, le lotte delle officine reggiane. La sua gente a schiena buona e a buona coscienza critica, ogni bambino come Martino brisce a pane a lotta politica. Oh, oh, come un brivido. Oh, oh, senti un brivido. Oh, oh, come un brivido. Martino è libero, davvero libero. Ma oh, oh, come un brivido. Oh, oh, senti un brivido. Oh, oh, come un brivido. Martino è libero, davvero libero. Martino sale in cima al ciliegio, dopo il lavoro alla scuola, la sopra legge di tutto, Conrad, Fröbel, Spinoza. Le lotte degli anni di piombo lo investono come bora, ora spingono la foga del suo mondo verso una boa nuova. E allora lo ha detto ai suoi, la stalla, l'aratro gli stanno stretti. Ora che nuovi concetti, ha bisogno di nuovi contesti. Salute in fretta, gli affetti più stretti, compagni più cari. Va a Milano, tiene un contratto, il contatto coi centri operai. Prima tra i gruppi dei pari, poi dei compari, poi tra i gruppi dei compagni, dei vari gruppi extra parlamentari. I vari gruppi rivali, i fasci, gli spari, i compagni non vogliono stare calmi. Qui c'è chi vuole passare alle armi. Le prime diffide, la cosiddetta svolta di Pecorile, le prime rapine, i gruppi studio della Siemens. Lo si invive di sfide, lo Stato nemico da battere. Martino combatte finché non si imbatte nelle sbarre del carcere. Da Gabbio scrive due righe a casa, lì a casa lo piangono. Anche là è cambiato tanto, solo il ciliegio è un incanto. I suoi vecchi si sono trasferiti a San Candido intanto, dove c'erano le cascine, ora c'è un campo santo in marmo bianco. Oh, oh, come un brivido. Oh, oh, senti un brivido. Oh, oh, come un brivido. Martino è libero, davvero libero. Ma oh, oh, come un brivido. Oh, oh, senti un brivido. Oh, oh, come un brivido. Martino è libero, davvero libero. Ma Martino è vaso ed è stato scoperto, ora è un militante, latitante, esperto, certo, super clan nel gergo, sa di lottare per il giusto, se nel modo giusto è dubbio, ma non c'è dubbio che il senso del giusto è nel senso del gruppo. Martino in azione si espone, viene colpito all'addome, laddove sente prima il rumore, poi il bruciore del piombo nel cuore. La vista si incrina tra i lampi, rivedi sui campi e la cascina, tra i tanti sente ancora sua madre. Martino sveglia di mattina, l'umore di Brina si fonde all'odore di sangue e sudore, poi le sirene un bagliore. Martino muore in poche ore, sono poche persone a seguirne il feretro, la famiglia e il pastore. Sui volti di alcuni non è per la morte il dolore maggiore. La sua campagna si contorce mentre ne vede passare il corpo, sembra pensare: io ti ho cresciuto forte, tu torni da morto. Da dove è sepolto ogni tomba si scalda ad un sole accanito, e la Martino riposa protetto all'ombra del suo ciliegio fiorito. Oh, oh, come un brivido. Oh, oh, senti un brivido. Oh, oh, come un brivido. Martino è libero, davvero libero. Swag mixtape, yeah. Next cassette, Adderex baby. Ora che bene o male, forse uguale, siamo soldati nelle forze del male. Arrestarci tutti non ti conviene, la tua prigione non ci conviene. Ora che bene o male, forse uguale, siamo soldati nelle forze del male. Arrestarci tutti non ti conviene, la tua prigione non ci contiene. Quando esco fuori passo i mezzi neri, non in mezzo ai negri ma i fasci e i neonazi. La mia città comandata da Ashley, investimenti grossi coi soldi dei Cristi Romar. Quartieri interi comprati, cantieri appaltati, Ferrari coi ferri dentro, soldati e soldati. Dal ricco nord-est, un pezzo del selvaggio west, sparisci senza tante storie, caro macho man. Anche io che parlo delle storie di sti papà, ho il cervello scaduto, ho il cervello in pappa. I miei amici mi dicono scemo di che parli, il capitano dei Maralpa sta scontando 5 anni. Toghe rosse come posse, come dice Silvio. Sarà ma intanto ha indagato anche il vice Manis. Pubblico sto disco, aspetto le pantere, come chi ha appena perso il potere. Vieni a vedere, ora che bene o male, forse uguale. Siamo soldati nelle forze del male. Arrestarci tutti non ti conviene, la tua prigione non ci conviene. Ora che bene o male, forse uguale. Siamo soldati nelle forze del male. Arrestarci tutti forse ti conviene, la tua coscienza tanto ti sostiene. Vuoi vedere i teenager del mio quartiere farsi le pere al posto di farsi le seghe? Prima fila come un abbonato, sono un bruciato come Maserati del mio avvocato. Qua sono rispettato pure dai caramba, io rispetto l'arma, capito? Rispetto l'arma. In caserma su YouTube c'è il mio video, senza diritti anche su Vimeo. Nesca se spaccia solo rap vero, senza cambiare il domicilio nel cimitero. Lavori un mese intero solo per gli interessi, a chi vuoi che interessi. Se finisci sotto i cipressi, mercati in crisi, giovani in crisi, schiavi accecati dal benessere in leasing. I nodi vengono al pettine come le mezze seghe vengono al padding. Quando le puttane non sono straniere, le tue figlie imparano il mestiere. Arriva uno a fare il cavaliere, quando il tuo leader fa la spesa al Lidl e tocca rivalutare i fratelli Fidel. Ora che bene o male, forse uguale, siamo soldati nelle forze del male. Arrestarci tutti non ti conviene, la tua prigione non ci contiene. Ora che bene o male, forse uguale, siamo soldati nelle forze del male. Arrestarci tutti non ti conviene, la tua prigione non ci contiene. Le forze del male non vogliono gli esseri umani liberi, ma li vogliono asserviti al bisogno. Non io. Questo era Nex Cassel, Forze del Male, dopo Martino e il Ciliegio. Qua siamo vostri amichevoli qui qua qua di quartiere, tre come moschettieri, manca il quarto che sarebbe Cesa One. Che non salutiamo, ci... bella Cesare. Bella Cesare. Non ci siamo presentati prima, microfono 1 con il microfono portabile da karaoke, Gigi Proiettili. Bella raga, che sono con una miss con cuffia a marcia e microfono sgrauso. E il giostraio di Chiesa Rossa, Orso. Eccoci. Al mio fianco, Ninco Nanco, a.k.a. Mauri, a.k.a. Pneuma, RCP, WWF, BUG, e al microfono 3, medesimo, Nino Stereo. Nino! Salutiamo la Gabri con il piccolo cane, come si chiama il piccolo cane? Scar. Con il piccolo cane Scar, che sono... Per gli amici Pasquale. Che sono venuti a trovarci nello stanzino di Radio ZM, live con Underground Pusher, il vostro programma preferito sulla vostra amichevole radio di quartiere, Radio ZM Milano Sud. Select Antifa, abbiamo proposto Murubutu, Martino e il Ciliegio, abbiamo proposto Nex Cassel. Proposta da Nino, ma la maggior parte della select è stata compilata da Mauri e Gigi, quindi sì, da Mauri. Lascerei la parola, non che cosa niente, non si accolla. Ma la colla. Non se la colla. È bella, spacca, devo dire, è molto varia ed eventuale, moderna, antica, trap, rap, c'è un po' di tutto. Proponiamola ai nostri amici per i prossimi cortei, proponiamola. Esatto, ai compagni e le compagne studenteste, basta con la musica da corteo che era vecchia quando io ero piccolo, vi prego, basta, vi passiamo questa playlist, la arricchiamo, facciamo delle cose nuove, vi prego, basta.

viaggio da che ero bambino. Metto quella mela dentro il tuo giardino, fumo tutta l'erba del mio vicino. Sempre giù in caserma da ragazzino, in zona faccio sempre un modo per fare casino. Chi si serve del potere uccide il contadino. Gli ha servito da mangiare solo pane fino. Dammi uno scherzo in un film, vai a piccino. Morirò in Sicilia come un clandestino. Sempre di vigile come un malandrino. Scappo sempre dagli sbirri come San Firmino. Isa rischia il vento, in furia la bufera. Scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol della vera. I'm running out of lifelines. I'm having trouble getting sleep up in the nighttime. Searching through my conscience, feeling scared of what I might find. I ain't in my right mind, we ain't in the right time. Got me in a tight bind, death is in a pipeline. Pedaling, pedaling up the hill, it's like it's bike time. Felony, felony, felony, you trying to take mine. Batman, pull up. Batman rob and he say he got bullets. Four leaf clover to my haters like, good luck. You shoulda, coulda, woulda, you woulda, coulda, shoulda. You niggas ain't fucking with me. You pay when you fucking with she. Meanwhile, I'm fucking for free. And she is the world. And then I go fuck with your girl. Fisca il vento, in furia la bufera. Scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol della vera. Pacino a me è piaciuta. Sì, spaccava. Io la voglio in corteo. Quando l'ho sentita la prima volta, cioè la coro militante con l'autotune è una meraviglia. Infatti l'ho spammata a tutti i compagni e le compagne, a tutti i compagni e le compagne è piaciuta. In particolare mi ricordo che era piaciuta tanto a Greta, che saluto. Ciao a Greta. Omar, che saluto. Ciao Omar. Bella Charmi. Probabilmente anche a Sapo Gulli, che è un esperto di trap militante. È piaciuta anche a Gabri, vero Gabri? Ti è piaciuta la canzone? Quindi sì, approva. Sui furgoni dei cortei vogliamo questo pezzo. Con questo perlomeno il ritornello. Sostituiamo Generator dei Bad Religion con A pugno chiuso di Izzy. Sì. Abbiamo una telefonata. Parliamo in diretta del Ticinello. Oggi c'è una giornata di mobilitazione a Milano Sud. Il progetto è antico dell'Inter, per cui è difficile che venga interamente capovolta. A me piacerebbe che questi 3 milioni di euro, invece che essere utilizzati per fare questi lavori, venissero utilizzati per rimettere a posto la cascina Campazzino, che è questa che vedete alle vostre spalle. C'è una spalla del 700 che è praticamente crollata. Il comune l'ha espropriata nel 2003. Nel 2003, per pubblica utilità, perché faceva parte del progetto del parco, l'ha espropriata. E poi ha lasciato tutta questa in rovino. Adesso non fa parte del progetto secondo lotto, neanche del terzo, ma è nel perimetro del parco. Quindi a noi piacerebbe che le funzioni fossero pubbliche e di servizio quello che è il parco agricolo. Invece è stato fatto un bando per manifestazioni di interesse e verrà assegnata a chi ha messo sul piatto ovviamente una cifra che l'associazione più piccola sicuramente non ha, che sono 2 milioni e mezzo di euro, e saranno qui la cittadella della carità. E qui mi fermo. Se volete andare a vedere cosa fa questa fondazione laica, che ha risultato il progetto più meritevole in questa manifestazione di interesse, tra l'altro tutte queste sono notizie, come dire, pubbliche, perché è una delibera pubblicata sull'arbitratore del Comune, quindi potete andare a verificare. Si chiama comunque Fondazione Fratelli di San Francesco. Io non dico nulla, per curiosità, chi è curioso vado a vedere. Al discorso della Campazzino,

resti a casa. Anni a dividerci, noi meno puri più duri. Tra di noi non si fanno differenze, parlano anche i muri. Perché ciò che vedono non siano più solo soprusi. Vuoi combattere la paura? Prima fissala ad occhi chiusi. Dal tuo campo di battaglia cambio direzione. La mia guerra è un'altra, un canto disertore. Cambia fazione, chi comanda un cambio imperatore. Seppelliscimi in montagna, campo imperatore. In braccio il Mickey, in spalla canta mille storie. La musica non cambia, cambia le persone. Abbraccio chi mi parla, cambia l'intenzione. Di chi campa di terrore, vuole dirti come. Keep it knowledge, aspettare stanca. Vivi le ore, feel this moment. Se la notte ti sovrasta, spingi il nome. Contro chi è rinchiuso l'alba dentro, sì signore. Vincono sempre i buoni, Italo Paolucci. Non importa quando parli, contano i gesti. Caratteri clandestini per i clusci. Ho in mano un testimone di staffette che non fermi. Polizia, sotto finta democrazia. Fotte la gente come la mia. Con traiettoria e acrobazia. Dove una vita vale di meno. Se una divisa preme grilletto. Nessuna colpa resta un mistero. Quando ti mandano al cimitero. Quando ti mandano al campo santo. Come hanno fatto i colleghi con altro. Pestato a morte senza un reato. Ma gli assassini non hanno pagato. No. Come hanno fatto pure con gas. Senza motivo, sangue versato. Mille bucce per un colpo sbagliato. Tanto a coprire ci pensa il capo. Oggi è 11 novembre, le curve contro lo Stato. E non chiedermi perché non mi fido dell'uomo armato. Come lo avete fatto in passato. Un cerchio sopra l'asfalto. Dopo la morte come quel sasso. Spacca la testa a carne. Niente colpevoli né assassini. Tra quegli elmetti ordinati e precisi. Tutti protetti, tutti impuniti. È la giustizia dei burattini. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Scrivo una lettera ad un analfabeta. Gente scrivi polizia con due Z. Picchia che il cranio si crepa. Zio fuoco amico, sì. Come errori in guerra. Sì, ma il tipo ha il cervello in terra. Perché pensava che eri una merda. Se mi proteggono chi? Mi protegge da loro. Chi? Io non mi fido mai, no. Mi proteggo da solo. E non importa le cose che sai, sai. Se poi gli sbirri sono come i VIP. Zio non pagano mai. Dal piombo degli anni 70, sì. La sirena lo incanta, sa che è merce appena la scarta. Lo sa perché tira la bianca. Zio si alza e già pulisce la Berta al mattino, sì. Ruba le buste in discoteca in cui entra col tesserino. A Milano, nei quartieri, i bambini non parlano agli sconosciuti. Ma nemmeno agli sbirri e ai carabinieri, no. Guardie e ladri, chissà chi fra chi sono gli infami. Chi ha lanciato il sasso oppure chi ha messo indietro le mani. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Hai le mani dietro al collo e la faccia contro il muro. Di fisso resta zitto perché non sei più al sicuro. Silenzio fino a quando non arriva il tuo avvocato. Sembra un film, lo so, compa, ma non è là che l'ho imparato. E non importa se sei buono, non importa se sei fiacco. Se ti vogliono far male, loro possono farlo. È l'abuso del potere che ormai è legalizzato. Non sai mai come finisce quando sei commissariato. Io non faccio mai di tutta quanta l'erba un solo fascio. Quindi esiste anche lo lo sbirro onesto che non ha sbagliato. Ma se penso ad ogni morto che hanno fatto per strada, non c'è mai la galera quando la divisa spara. È la polizia di stato, lo stato di polizia. Chiedi al padre di Carlo, alla madre di altro. È la polizia di stato, lo stato di polizia. Al fratello di Gabbo, il massacro alla Diaz. È la polizia di stato, lo stato di polizia. Polizia di stato, lo stato di polizia. Polizia di stato, lo stato di polizia. È la polizia di stato, lo stato di polizia. È la polizia di stato, lo stato di polizia. Polizia di stato, lo stato di polizia. Polizia di stato, lo stato di polizia. È la polizia di stato, lo stato di polizia. Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. Io ti sono sei, mi sei descrivendo. Vero Pecorelle? Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera. Ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera. Io ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera. Ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera. Torino, mentalità ultra, vecchia maniera. Solo in qualche vecchia foto sta città era bianca e nera. Ah, sì. A, B, perché siete tutti uguali sotto il casco e la visiera. Siete tutti uguali, indosso la divisa, in testa vecchi ideali. Giovani fascisti contro giovani precari. Vecchie strategie contro vite amatoriali. Giochiamo ad armi pari. A guardie e ladri con i gradi. Siete bravi con le mani, siete infami, schiavi. Sbirri in quanto tali, abbiamo fatto scelte diverse. Voi dalla parte del più forte per sentirvi meno. Merde, avete il ferro in tasca, ma sti cazzi a me non serve. Non ho la divisa, ma ho le palle almeno. Quelle non siete pecorelle, ma lupi travestiti. E non citare Pasolini, non sai quello che dici. Sarà dura, ricorda sarà dura. Non senti più il dolore, né la fame o la paura. Ricorda sarà dura, hai fatto la tua scelta, io ho fatto la mia. Polizia di stato, stato di polizia. Sarà dura, ricorda sarà dura. Non senti più il dolore, né la fame o la paura. Ricorda sarà dura, hai fatto la tua scelta, io ho fatto la mia. Polizia di stato, stato di polizia. Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera. Ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera. Mi hanno detto non esiste più la destra e la sinistra, fanculo. Io so riconoscere un fascista anche senza la divisa e il manganello. La libera espressione non esiste, sei la merda nel cervello. Quindi state zitti, state zitti. Quegli infami non diventano innocenti anche se assolti o prescritti. Don't clean up the blood. Quel sangue non va via. Polizia di stato, stato di polizia. Stato, stato di polizia. Polizia di stato, stato di polizia. Che collegamento. Dighelo Mauri. Eccoci qua. Siamo verso la fine di questa puntata strana di app. Compagni, voi avete il microfono più meglio del mio. Intratteniamo. Intratteniamo. Beh, possiamo intratteniamo. Dire che intanto nel sottofondo sta passando una canzone di Massimo Pericolo Beretta, che lui in realtà l'ha fatta, ovviamente a prescindere dai Fatti di Piacenza, ed è uscita giusto il giorno prima, e il giorno dopo è uscito dai Fatti di Piacenza. Quindi diciamo che gli sbirri stessi hanno spinto la sua canzone. e so anche di un fatto che un fan ha preso la foto di Massimo Pericolo, un frame del video dove lui abbraccia un coccoloso gattino, l'ha messo nel gruppo Facebook Amici Poliziotti o Poliziotti nel Cuore, una cosa così. Messo il frame, ovviamente 1000 like, finché poi la stessa pagina della polizia ha detto questo cioè incazzatissima, poi come se fosse un cretino su vabbè, appunto sono dei porci su delle tastiere, quindi non c'è nulla da aspettarsi. Incazzati neri, su cui denunciano il fatto, e anche chi dà a disposizione questi i vestiti, le macchine, che sarebbero alla fine diciamo le imprese che danno ai cinema e ai teatri per fare i film, no? Quindi giusto. Quindi sono ben imitate. Diciamo le tracce che sono passate dopo RCP Aurora. Abbiamo messo Aban, Lettera a uno sbirro dalla bella Italia. Si parla credo del 2009 massimo. Infatti era un'altra sonorità molto più South. Aban da Lecce, del resto non può che spingere il South. Mi mancavano i ritornelli trascinati con il vocione così. E poi che abbiamo messo 13-12 del tuo corregionale Willy Peyote. Lui è di Torino, giusto? Torino. torinese, riprendendo la polizia di Stato, lo Stato di Polizia. Abbiamo spazio ancora per un pochino di musica? La scegliamo, amici colleghi. Ma secondo me, Marra, quelli che non pensano, non è una brutta traccia. Caricata, visto. Facciamo quella, dai. Al volo. E poi mettiamo anche Colle, dai, una dopo l'altra. Dai. Penso diverso, penso. Bella quella. Dai. Spacca di brutto tutto, proprio. Sul collo. Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano. Oh, algoritmo che sei nei server, manda il mio pezzo nella top 10, il mio video nelle tendenze. Mandami uno spot ad hoc, non so cosa comprare. Tocca i miei dati sensibili per guidarli a votare. C'è chi beve e si droga per non pensare, e a chi viene naturale. Non sei informato se non ti leggi il giornale, e se lo leggi sei informato male. A Uma Uma Thurman, la donna forte che un po' ti turba. Tuo figlio in rete da quando è in culla come Truman. Vedo un obeso anche lui YouTube. E più si abbuffa più gente esulta. L'era della musica sempre no quel serena. La cazzo di gara infinita chi se la mena. L'ignoranza sventolata come bandiera. Il sonno della ragione vota Lega. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano, siamo morti. Ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Cazzo, sul serio davvero, mai visto che il tipo ha postato sta roba? Toglietegli il vino, toglietegli i social. Estate di pizza, o i posti in cui vengono bene le foto. Vogliamo la pizza, o Cannavacciuolo che vengono bene le foto. Tipe che pensano di darla ma non sanno a chi. E sono un po' l'ultima spiaggia di Cabo e The Beach. Sono tornato sul mercato come Keanu Reeves. Alzi la mano che ha pensato che ho rubato il beat. Salve Salvini, se lo contesti già sono citi. Manda vaccino ai vaccini, terapeutisti, privi di senso. Siccome i testi nell'indie, trappano i bimbi. Sai che su streaming non trovo Lucio Battisti. Volano dissi, piovono fischi. Marrakesh, bocciamo come a Cincinnati. Su via, siamo adulti e non vaccinati. Il senso è nascosto così bene che non c'è. Non avrai altro brand al di fuori di me, yo. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano siamo morti. Ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Stiamo cadendo col mondo in mano, più a fondo vado, più capisco che non penso. Se penso al fondo l'ho già superato, ancora scavo e tu sei come me. Stiamo cadendo col mondo in mano, più a fondo vado, più capisco che non penso. Se penso al fondo l'ho già superato, e ancora scavo e tu sei come me. Non pensano. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano siamo morti. Ti senti presa alla... E ti ripeti che era quello che volevi. E mi giuri che alla fine è normale anche andare contro a quello in cui credevi. E mi dici che ogni gioco ha la sua regola, che sono io che vivo male. Mentre il mondo intorno si sgretola, tu chiudi la tua porta e spegni il segnale. È un confine sottile, chi è dentro è dentro, chi è fuori un bersaglio. Mentre sogno un fucile da puntare su ogni singolo errore, ogni singolo sbaglio. E mi parli di chi sale e di chi scende, di chi vince e di chi perde. Quasi mi convinci che contano soltanto i primi, gli altri non valgono niente. Ma io penso diverso, ostinato e contrario. Resto avverso al tuo pensiero perverso, che mette tutti su un unico binario. Tu che pensi che l'amore si vede dalle cicatrici, poi mi parli di radici e mi dici che l'onore si misura dai nemici. Tu che coi deboli alzi la cresta, poi coi forti abbassi la testa e ubbidisci da bravo soldato. Un spirro dentro assunto assoldato. Ma io penso diverso, in un'altra direzione. vado solo verso il basso, perché è lì che trovo il sole. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Io penso diverso, odio chi ci controlla, ammassa la gente e la sfolla, nemmeno processa gli infami, alla fine non pagano nulla. Se processa infanga e condona, gli assassini in divisa perdona, tutto quanto approssimativo, ma se interessa a loro funziona. Questa è guerra, guerra rispondo, con nessuna bandiera di sfondo, con nessuna certezza al comando, guardi e filo spinato sul mondo. Ed il tempo non cambia, peggiora, bugie dentro i libri di storia, ascoltare e ubbidire non fa per me, spatta i tacchi a chi ci divora. S o non S, questo è il problema, in S o S questo sistema, cambiano piani, saltano conti, per campare uno muoiono in molti e muoiono in troppi, e ho voglia di uccidere chi annaffia e recide, chi si prende tutto e se la ride, succhia il sangue a chi sopravvive. Ma io penso diverso, cammino nel buio, cancello le tracce e non scordo il male subito, mantengo l'attrito, ricordo le facce. Questo tempo che cambia veloce, embellito i profili e domato l'istinto, ma io resto aggrappato al microfono e voce che vola e scavalca il recinto. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Adversus, bellissimo. Devo dirlo per contratto tot volte, se no non è underground push. Comunque quel concerto sono andato a vederlo grazie al bonus cultura di Said. Che concerto Mauri, prima nessuno ci ascoltava, che concerto? È il concerto dei Colle, appunto. È un concerto bellissimo di cui Nino è rimasto tronato. Ma il bonus cultura di Matteo Renzi, spot elettorale. Salutiamo Said, chissà se ci ascolta dal Salento. Ovvio, insieme a Aban. Speriamo. No, vabbè, comunque devo dire, io questo album l'ho sentito da Spotify, che però ti taglia tutti gli alti, e vabbè, probabilmente non l'ho ascoltato con attenzione, però dal vivo rende tantissimo, l'ho visto due volte, quella volta lì all'Alcatraz che non ci siamo beccati, e poi a Nerviano, quindi anche in open space. E figa ragazzi, c'ha proprio quei bassi potenti del reggae che se ti fumi una tromba veramente galleggi sul sound, bello pastoso, bello pestone, quindi l'ho rivalutato di brutto. E la cosa bella secondo me, perché se il disco suona in un modo, il live suona molto più bello, come tanti altri gruppi che insomma conosciamo dell'underground, è un piacere andarli a vedere dal vivo, speriamo prossimamente. Dagli è forte. Adesso ci spariamo una pizza in trotto, al trotto. Al trotto, al trottodromo, P38 Gang! Se tira aria di satira, parte già satura. Si perde il metro, va de retro, tu è Satana. Lo stolto ride sul tetro, blatere e blatera. Mimica alcolica, figlioli, chiudetelo in clinica. Minchia Calderoli minaccia, sta gente feccia della feccia, la faccia della faccia. E guarda che faccia di cazzo mi dà la caccia. Bianca e cristiana, secessione, ronda padana, erezione del capo in pedana, attenti al lupo, metodo Gestapo, non rifaremo la fine del topo, presto balleremo sul culo del tipo, noi rideremo dopo. Mi chiedo se sti tonti si son fatti due conti, cervelli lenti, li vedo un po' troppo convinti, siamo più di loro, più cattivi di loro e soprattutto abbiamo più fame di loro. Lasciate andare DJ Grafo, lasciateci andare. Le ronde ci portano via, la musica al commissariato dalla polizia. La Lega fa la pulizia delle strade, migliaia di persone arrestate in nome della sicurezza e del controllo. Calpestate la nostra fierezza, aspettate il crollo. Ma caro Borghezio, sono già avvezza al fiato sul collo. Non sono un pollo, non ti rispetto, non mi piego né mi spezzo. Sono cittadino del mondo, caro Maroni. Provengo dal sud profondo e affondo le radici nelle tradizioni. Caro Bossi, già innanzi volevano dimostrare una discendenza ariana inesistente. Ascoltate la gente più onesta, più mista e più sana. Il futuro è un mix propizio proveniente da mille altri posti. Svelateci ciò che sistemate, i disastri tossici che ci tenete nascosti. Per farvi cazzi vostri, esattamente per farvi cazzi vostri. C'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, io c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, piombo piombo da mangiare, fame fame come un cane, sparo allo stato c'è poco da fare, ho messo i carabinieri, ho messo i carabinieri, sento le storie di ieri, passa montagna tra vicoli neri, vicoli neri. Scusami mamma, un proiettile in canna per ogni fascista, sparo alle gambe e gli tolgo la vita, sporco di sangue sopra ogni rivista, facce di merda col culto del corpo, spine di merda sul podio, fatti di coca li sporco, bruciano vivi se tiro una molotov. C'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, io c'ho una pita in tutto per il tuo padrone. Entro alla zecca di sta, soldi soldi sul camion, tutti per i compagni, compro soltanto grammi, facce di merda lo faccio da prima, dai fuoco alla partita IVA, facce di merda lo faccio da prima, do fuoco alla partita IVA, io c'ho una pita in tutto back, vado sul bag, sparo lo stronzo, rapimento come Aldo Moro. Chiudo sto tempo fratello, voglio soltanto il tuo oro. Borghesi di me, niente borghesi di me. C'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, c'ho una pita in tutto per il tuo padrone, io c'ho una pita in tutto per il tuo padrone. Della droga, distretto dello Stato, un porco resta un porco anche se il fiato profumato. Siete i figli della merda, le puttane del governo, un infame resta infame, ci resta per eterno. BB boy, smoking everyday, il suono che performa appena PG play. BB boy, ti manda il bad trip, brilla e defibrilla come cristalli di MD. Lo spirro vuole nomi al manganello nelle mani, dimmi chi te l'ha data, non arriverà il domani. Tu non hai il diritto di avere dei diritti, sei solo spazzatura e finirai a piedi dritti. E come canta bene l'uccellino spaventato, per la paura della gabbia in un attimo ha cantato. E come canta bene l'uccellino spaventato, per la paura della gabbia in un attimo ha cantato. Acab, cop, spari e dopo uccidi, mi guardi sempre male, dimmi cosa cazzo ridi. Acab, cop, favorisca i documenti, gambe larghe e mani al muro e tutti sugli attenti. Spiri come cani che mi inseguono, amici come infami che mi infamano. Il mondo moribondo si frantuma e le persone a cui tenevo piano piano poi scompaiono. Spiri come cani alla stazione danno caccia alle persone, la mia faccia non gli piace, non ho pace. Dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vai vai vai. Spiri come cani alla stazione danno caccia alle persone, la mia faccia non gli piace, non ho pace. Dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vai vai vai. Il popolo si affama e fa la cellerina Maira, che esce di casa impugnando un fama, sa sparare a chi protesta nella ressa per le briciole di quest'Italia che massona. Prende tangenti durante una messa dalla stessa massa che commossa protesta. Maira infame acclama il potere battendo il picchiatore sullo scudo mentre canta canzoni da giovane balilla e picchia da vera squadrista un'Ucraina. La notte sogna i monti del Ketama, Maira legge libri sul Dalai Lama e l'odio che ha dentro nemmeno il demonio se lo spiega. Benvenuti nel paese dove il Papa reclama la pace e lo sbirro Pirro dopo una partita di calcio spara ad altezza d'uomo riducendo il ragazzo in pece. Le crociate vengono combattute come? Fino all'ultimo barcone, in una partita a forza 4 giocata da biscidi senza nome. Viviamo nel paese dell'oppio dei popoli, del condono dei politici, dei falò di Salò fatti coi corpi dei poveri. E mentre le famiglie percosse fanno la fame, la chiesa risolve tutto con un amen. Ricorda i racconti dei nonni sulle brigate rosse, passa montagna e molotov, il terrore di Renato Curcio scende dopo mezzanotte. Qua si stuprano ragazze, ma gli sbirri porci picchiano ragazzi innocenti nelle piazze. Sbirri come cani alla stazione, dando caccia alle persone. La mia faccia non gli piace, non ho pace. Dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vai vai vai. Sbirri come cani alla stazione, dando caccia alle persone. La mia faccia non gli piace, non ho pace. Dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vado vanno loro, dove vai vai vai. E oh. Questa... Bello questo effetto, hai visto la tecnologia? Mamma mia ragazzi, quando siamo in tre si fanno faville. Com'è si che fanno... se schiaccio sto tasto fa quel rumore? Vediamo. Pam pam pam. Funziona. Però solo quando viene Mauri che si porta dietro la roba, perché sennò non funziona. Zero roba, se non niente. Allora, che cosa abbiamo passato? MCBBO che si chiamava ACAB. ACAB Cops con Mad Rock, poi Ronde. Poi prima c'era Ronde di ESA DJ Graf. Salutiamo il nostro amico ESA. Salutiamo il nostro amico ESA che prima o poi dovremo intervistare per il nostro format Up Talk, il talk show più milanese di Milano Sud, più sì, hip hop di Milano Sud. Credo che lo sia. Penso proprio di sì. E che cosa c'era anche? C'era anche P38 Gang. Con P38. Con P38. Meglio di così. Molto, molto di parte, ci piace. Beh, la P38 era anche la pistola che aveva Lupin, quindi ancora più leggendaria, ancora più nobile. Vorrei ancora più nobile. Chissà se questi rapper indossano una giacca rosa. Secondo me no, ma infatti non voglio mai scoprire chi sono, perché so già che ci rimarrò malissimo. Uno potrebbe essere Gammon, proprio come l'amico di Lupin. Sarebbe un bruttissimo voto per me. Terribile. Allora, cioè... abbiamo un altro terzetto di robe? Sì. Ma ci colleghiamo con quello che vedo in sovraimpressione, eh? Un remix di ESA. Fatta da qualcuno che conosciamo. Però sì, diciamo sì, che sì, la produzione, ci tengo a dirlo, è stata fatta con un bel 45 giri, scavallando la CIA e cioppandolo, rallentandolo e facendo un campione Griselda. Olè. Da parte di Mister Quando Vengo Giù Mi Dicon Tu Sei Bravo, a.k.a. ESA. Quest'estate l'abbiamo fatta uscire. In realtà l'ho scritta un anno prima, per il 18° dell'anniversario della scomparsa di Carlo Giuliani, e abbiamo voluto fare versione originale su Beat USA da mixtape e produzione. Quindi quella è 20 luglio freestyle, e poi abbiamo Leone di Diamante e A Pugno Chiuso di Zasta, dedicato a Bach, che è un compagno storico del movimento italiano, direi, non solo milanese, che è scomparso poco tempo fa per una brutta malattia, e Zasta ci era molto legato e gli ha dedicato un pezzo, e direi che ce l'ascoltiamo tutte e tre. Sì, io giusto in appendice volevo dire che anche il nostro amico Beppe era molto legato anche, e quando Beppone, hanno fatto, certo, il live in memoria, appunto, c'era anche Beppe, quindi voglio salutare anche Beppe, che bella, appunto, Beppe. È sempre in prima fila sia con la musica che ancora di più con la presenza in tutti gli eventi Antifa. Dai, Aleppo. È bella anche Liam Vic, che saluto affettuosissimamente, di cui tra l'altro è vero abbiamo campionato la voce per fare il pezzo. Un abbraccio a tutti, allora, e ci ascoltiamo questi tre pezzi. Yeah. Nino Stereo, Captain Futuro Studios. Corrosi in mezzo a tempi corrosi, i media alimentano la psicosi, con una media il pugno tra individui plasticosi, se dormo è perché i mari non sono più pescosi, fai fuoco e fiamme ma sei solo fumoso, fuori per il moffo ma non faccio lo smorfioso, espingo, espongo e sfondo questo beat con Mauro Nardi in sottofondo, reggaeton, maiuzzi, guizzaton, senza bonton, ti do sti bonbon come Camel, fuori dal pacchetto, chiedo chi è uno. pensa a quanto tempo aspetti l'ascensore, a quello che ti aspetta sempre di investitore, maggiore tappa per un'altra strage di Stato, assenza di giudizio e moralismo a buon mercato, è sparito chi ha sparato, chi ha lanciato il sasso ed ecco il risultato, teste vuote applaudono teste di cuoio, la verità fa male, nodo scorsoio, social e media alimentano il fuoco, puoi accenderlo con la Repubblica del giorno dopo, io stappo la pinga tra milioni di clicchi, ancora l'ora dell'ira, bella Liam Vick, tu stai con la gente, io con la gente mia, il 13 dicembre, Santa Lucia, 18 anni che non bevo questo intruglio, su questo beat è sempre il 20 di luglio. Lì nasce la sua vicenda, era un re senza corona come il padre Umberto. In Africa a cercare fortuna, lì ci trova un'altra luna. Aveva la pelle d'ebano, era Mabeta Zibù. Era la prossima regina, figlia del capo tribù. E laggiù venne alla luce un mulatto tremendo, doppio campione europeo di box, cittadino del mondo. Da quella coppia là nasceva il talento. Era l'anno del ruggito, era Iacovacci il portento. Era 1902, nome Leone, quello del papa, della bandiera, delle prime persone. 3 anni di vita lui cambiava nazione. Cresceva a Roma, Italia, prima emozione. In quel periodo qui era cosa scientifica l'inferiorità della gente dall'Africa. Studiosi impettiti con la mente malefica, Leone non crebbe affatto con la mano pacifica. Un po' in collegio, un po' con i nonni, l'unico nero già frascato in quegli anni, chissà i danni. Imparò sale mani come le armi, e dal mare in quel giorno il porto di Taranto era piccolo. A 16 anni imbarcato per la guerra British Army, mo c'è piazzo qualche sberla. Dopo 2 anni vive a Londra, 14 prime vittorie consecutive. Cambiò il nome, John Douglas Walker, di dove non si capisce, parlano i pugni nelle interviste. Chi è? Chi è? Dalla stazza alla presunta razza, Leone ci imbarazza del fascismo che in quegli anni in Italia è pazza. Ma il fatto è che mo a Roma lo ama tutta la piazza, per le pizze che piazza, per la forza che non smorza. Coraggio in piedi davanti a una società che non riconosce niente della sua italianità. Dura, vince tutto ma non può tenere la cintura. Il campione non si misura, il campione ha paura. Mette giù quell'europeo dei medi e medio massimi, ma sui giornali fasci solo tra filetti ai margini. Tanti incontri, trucchi, arbitri del regime, ma il Leone vuole prede, non le bricioline, signorine. 14 prime vittorie consecutive, prima Londra, adesso Francia, ma dov'è che il suo cuore vive? Mo non ci stai più caro, tutta una botta. Guaglion Abbott, Luong, Ruos, Ruos, via dei transiti, Milano, numero 28, casa occupata, Ro 1978, a tre puzza a Milano, tarantelle lot, back, due mani tante, un coro ruos, a storia un rotron che ven a lontana, un piezzi e la storia e l'autonomia a Milano. A pugno chiuso, frate, a parte chi tu conoscevi, a parte chi t'ha conosciuto, che stai per te, frate, che a mo te ne si chiude, un grande saluto, mano sinistra, a pugno chiuso. E giriamo tutte fiere, come aiuta a farne. O fatte che non si capisce, e non si può capire. E giriamo tutte fiere, come aiuta a farne. Fate che non si capisce e non si può capire. Ehi, Fabione, io sto a casa, passa. We'll be right back.